fossi io viene lento di vagare una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi dedico la trasmissione a una mia amica molto carina che so che ascolta tutte le mattine, che ogni tanto si lamenta, le rare volte ci si incontra per occasioni extrafamiliari, dice: la mia vita è finita, parlo soltanto con persone che parlano dei propri figli, non ne posso più. Sì, in effetti ha due bambini molto piccoli, un marito che lavora lontano, che si vedono soltanto il fine settimana, praticamente lei... apprezzata e prorompente collega è costretta, ha fatto una sua scelta, alleva i figli, sta a casa tutto il giorno, uno ne pulisce, uno ne lava, uno lo porta all'asilo, l'altro lo riprende, insomma fa l'allevatrice del frutto benedetto del suo seno, niente male tra l'altro. Questa amica me lo dice con un grande senso di depressione, sentendosi anche piuttosto emarginata dal resto del mondo. Dice: ah, beati voi che uscite, vedete gente. Poi la mia situazione non è molto diversa, ho figli più grandi, quindi ho altri tipi di problemi. E sente questa forte differenza, questa netta separazione della società. Lei avrà, che ne so, 30 anni più o meno, una cosa del genere, quindi è fuori standard rispetto alla media delle sue coetanee, ha fatto una scelta anticipata rispetto a quello che oggi normalmente fa una donna. Beh, lei sente fortemente questa netta distinzione tra le persone che hanno fatto i figli, che hanno i figli, e quelli che non ce li hanno. Sono due universi che si separano radicalmente. Anch'io quando cominciai a avere i figli mi resi conto che non potevo più frequentare le persone che frequentavo prima. All'inizio la si prende alla sportiva, si porta il bambino, tutti ridono, tutti sono contenti, sembra una cosa molto divertente, si esce con il figlio anche la sera, lo si allatta nei locali notturni, sembra una cosa che potrebbe andare avanti tutta la vita, un po' come i punca bestia che vanno in giro con i cagnolini, se li portano ovunque. Poi ci si rende conto dopo un po' che i ragazzini piangono, i ragazzini fanno la cacca, i ragazzini rompono le scatole, man mano che crescono gli amici cominciano avere sempre meno piacere di averti fra le scatole, soprattutto se loro non ce li hanno. Alla fine ti rendi conto che sono sempre più rari gli inviti che ti fanno, le volte che ti vanno, dico: ma porti figli, non sai a chi lasciarlo, e ti creano apposta delle occasioni nei periodi di incastro in cui è impossibile muoversi senza ragazzini dietro, per cui alla fine tu rinunci e cominci a frequentare le terrificanti coppie con figli. Qui si apre un altro problema che riconosco, di cui riconosco perfettamente la paternità alla mia amica. Si comincia a porre il problema dei figli al centro di ogni propria emotività, non esiste altro, noi non esistiamo più, non esiste il nostro lato affettivo, la nostra curiosità, la nostra titanico desiderio di espansione, la nostra curiosità per le pieghe nascoste dell'universo, esistono soltanto i problemi dei figli, i problemi dell'allevamento, i problemi dei dentini, i problemi della crescita, i problemi della scuola materna, i problemi della scuola elementare, i problemi della scuola media, i problemi degli insegnanti non capiscono i figli, i problemi dei figli cominciano a essere adolescenti, quindi sono tristi, i problemi degli altri ragazzi che sono sempre diversi dai nostri figli sono sempre più indifesi, sono sempre migliori, non sempre geni, e in questo riconosciamo sempre, chissà perché, una sorta di familiarità, di quasi spirito settario con gli altri genitori che condividono i nostri problemi. Non so dirvi cosa succede dopo, qual è la fase successiva, perché questa mattina a voi porrò il problema che mi ascoltate. Non è una trasmissione questa dedicata al problema dei figli, fare i figli, non fare i figli, so esattamente, è un grande problema, so esattamente che una volta fatti i figli uno non rimpiange averli fatti, però rimpiange molto, invidia molto quelli che non ce l'hanno. In serate primaverili come queste, in cui uno amerebbe camminare lungo i cornicioni degli argini del Tevere, amerebbe passare la notte contemplando la luna, amerebbe tante cose, no, deve tornare a casa, ci sono i ragazzini, perché la Bielorussia a una certa ora anche lei deve andarsene a casa, perché nessuno te li guarda, perché alla fine in fondo devi fare il tuo dovere di padre. L'Italia non si estinguerà solo perché gli immigrati sono in aumento e fanno figli, fanno sicuramente più figli di noi. Ho 34 anni, sono sposata e amo mio marito. Lo confesso senza ipocrisie. Preferisco accarezzare un cane o un gatto piuttosto che fare un complimento ad un bambino. La gravidanza e il parto mi spaventano a morte. Voglio continuare a pensare a me stessa e basta. Non sopporto l'idea che una personcina bisognosa di attenzioni e totalmente dipendente da me mi cambi la vita e le abitudini. Cosa ne pensate? Sono un mostro di donna o riconosco i miei limiti? C'è qualcuno che la pensa come me? 800 24 0024. Non lo prendiamo sul serio il problema, come potrebbero prenderlo giustamente molti colleghi interessati alla puntualizzazione sulla realtà. E ti sentito un pezzetto di 8 e mezzo in cui Lilli Gruber annuncia quelli che sono i dati dell'ultimo indicatore demografico del 2009 dell'Istat, in cui in effetti risulta che noi italiani, che eravamo grandi fecondatori, grandi allevatori di figli, la scena più stereotipata che rappresenta il nostro paese, la famiglia ideale con 200 bambini intorno, in cui il figlio maschio veniva molte volte fotografato con il pisellino fuori dai pantaloncini per l'orgoglio che portava e l'onore che portava al suo casato. Beh, oggi invece siamo dei simpatici signori, delle meravigliose signore che passano le loro serate in luoghi meravigliosi, riempendo di invidia il nostro macerato cuore dalle angustie paterne e materne, ma che però dicono come questa signora: non me la sento, riesco a fare la carezza a un cagnolino. Infatti girano riempendo le aiole delle sporcizie i loro cagnolini, impestano i vagoni dei treni, impestano i ristoranti, impestano tutti i luoghi possibili e immaginabili con l'odore pulcioso dei loro cari animaletti, per cui mi beccherò probabilmente un anatema vita in questo momento, ma non hanno assolutamente voglia di contaminarsi con altri esseri umani. Mettere su la fabbrica di un figlio è una cosa impegnativa, la maggior parte delle volte vengono per sbaglio, poi uno dice vabbè, teniamoci, siamo tutti contenti e via dicendo. Altre volte c'è chi li progetta, altre volte c'è chi fa iperboliche virtuosismi per riuscire a avere un figlio in qualche maniera, si fanno viaggi della speranza, si fanno accoppiamenti plurimi con il cronometro in mano e con il termometro nell'altra mano, si fanno vituperi incredibili, perché sì, perché per chi non ce l'ha diventa uno status irraggiungibile, diventa un desiderio soffocante, la sindrome della 37enne che sente ancora le ultime vampate del desiderio di maternità che non corrisponde magari con le sue attese di carriera, con la necessità di essere ancora libera e spedita, di essere disponibile per il mondo, in realtà sono molto difficile da riuscire a contenere. Gli uomini normalmente hanno questa sorta di illusione di riuscire a fecondare fino ai 99 anni in un modo o nell'altro, con aiuti chimici, meccanici, estrattori idraulici, comunque ci riescono. Le donne sanno da un certo punto in poi non lo possono fare, quindi comunque il figlio, anche allucinato, anche invisibile, anche desiderato, è al centro delle discussioni di tantissima gente. Ma allora perché non li fate i figli? 800 24 0024. Quasi 33 anni e non ho mai avuto il benché minimo desiderio di sposarmi e di avere figli. Perché devo sentirmi ogni volta una filippica quando dico che non voglio avere figli? I figli sono un impegno, ti levano la libertà, costano e necessitano di attenzione costante. Io non ho voglia di stare dietro ad un'altra persona, voglio viaggiare e già ho due gatte che mi limitano molto ma che adoro e per cui faccio rinunce. Voglio conoscere persone, voglio fare tardi la notte e svegliarmi all'una di pomeriggio. Voglio decidere quello che voglio fare dall'oggi al domani senza dovermi organizzare con nessuno e in funzione di nessuno. Non voglio passare notti insonni dietro un bambino che piange e vuole mangiare. Non voglio alzarmi all'alba per portarlo a scuola. Mi scoccio di portarlo dal dottore o da qualsiasi altra parte che necessiti. Non mi va di spendere soldi per tutto quello che riguarda un figlio. Sì, sono egoista. Fatico dalla mattina alla sera e voglio spendere tutto quello che guadagno per me. Ho sofferto molto nella mia infanzia e non penso di saper dare la felicità a un figlio. È così grave se non voglio sposarmi? Se non voglio condividere ogni sera il mio letto con una persona perché dormo meglio da sola? Se non voglio dividere il mio bagno con qualcuno? Queste sono dichiarazioni concrete, reali, pensieri espresse da esseri umani rispettabilissimi, condivisibilissimi, figuriamoci, sono perfettamente d'accordo. Potendo tornare indietro, ma non suoni come blasfemia o rinnegare il frutto del proprio sangue, ma semplicemente, chiaro, ogni tanto uno lo fa questo pensierino. Però è altresì vero, e non porto acqua a nessun tipo di schieramento, non sto dalla parte di quelli che fanno i figli. Ho assistito testé domenica domenica a una sorta di litigio dietro le quinte di un meraviglioso talk domenicale al cui partecipai in veste di non so bene cosa, fra una coppia benedetta, non so quanti figli, rappresentavano i figliatori per eccellenza, c'era il figliatore e la figliatrice, e il grande amico Meluzzi che difendeva loro, e poi dall'altra parte c'erano due o tre coppie gay, non so che, e l'oggetto del contendere: voi non potete fare i figli, noi siamo dei grandi fecondatori, e via dicendo. Vedete, si parla sempre di figli, si parla con quelli che non li vogliono, si parla con quelli cui sarebbe negato averli, si parla con quelli di cui ne sono fieri. Il figlio è sempre al centro comunque di ogni discussione, quindi è importante questa mattina chiamare all'800 24 00 24. Siate voi indignati, siate voi fieri, siate voi tronfi, siate voi invidiosi, siate voi biliosi, siate voi, ahimè, disperati perché non riuscite a avere questa sorta di benedizione. Beh, chiamate, fateci sapere il punto di vista sui figli. Se no ci dovremmo fermare al mero e crudo dato Istat per cui una donna italiana fa in media 1,32 figli, 1, quel 32esimo di figlio, tutti messi insieme probabilmente fanno un altro figlio, ma chi lo danno, quando in realtà la donna straniera ne fa 2,31. Quindi non è il problema economico, non si fanno i figli perché non si è raggiunto lo status, perché ancora non si è arrivato al punto giusto di carriera, perché non si hanno i soldi per mantenersi. I figli si mantengono comunque, chiunque li mantiene, ci sono frotte di bambini, vediamo, abbandonati in mezzo alla strada, che però vivono, sopravvivono. Non è il problema di mantenerli, è difficile che alle nostre latitudini un bambino muoia di fame, un bambino rimanga abbandonato. Quindi poi se lo fa la donna straniera, la donna emigrante, che ha probabilmente molti più problemi economici, c'è veramente un forte blocco. Qualcuno vi dirà: è l'edonismo, è l'egoismo, è lo spirito laicista, e non sono nemmeno d'accordo che sia questo. C'è qualcosa per cui a un certo punto i figli, che in realtà un po' le scatole le rompono, un po' la libertà la tolgono, vengono lasciati da parte. E poi in effetti poi ci sono i pianti e ci sono i rimpianti. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Lei da che parte sta? Ma io sto dalla parte dei non figli, perché è una non figliatrice lei? No, sì, ma proprio volutamente. Io mi sono fatta sterilizzare. Ah, sì, addirittura. Sì, moltissimi anni fa, quando ancora si è stubata, come si dice? Mi sono stubata, sì, effettivamente. A che età l'ha fatto lo stubamento? Ah, guardi, ero giovanissima, 25 anni. 25. Quindi lei non voleva affrontare il problema della contraccezione responsabile, cioè esatto. Mi stubo, così ho chiuso il problema. Sì, perché ero molto sicura della mia decisione. È reversibile però lo stubamento femminile? Sì, irreversibile. La resezione perché maschile pure? E questo non lo so. Sì, no, gli uomini una volta fatto non si torna più indietro. Le donne sì. Però forse si riapre, no? No, nemmeno. Allora, e c'erano due possibilità, o di chiudere le tube oppure di farle tagliare. Lei ha tagliato? Sì. Così non ci ripensa più? Sì, ma non ci ho mai ripensato in effetti. E quindi lei, mi consenta il termine, ha usato diciamo la sua affettività, la sua capacità di darsi, di dare, di prendere, totalmente concentrata sul fatto che doveva vivere la sua vita. Guardi, non. Sì, probabile. No, guardi, no, non vorrei essere frainteso, perché chi fa questi discorsi di solito alza il ditone e poi dice: perché tu non fai filtro? Non è un dovere, non è una necessità, non è un obbligo. Io mi pongo solo le domande. La sua è una posizione che sono molto felice questa mattina di vedere espressa con questa lucidità e questa serenità. E quindi le do il massimo spazio, non la giudico. Ringrazio. No, ma si figuri. Ma no, guardi, forse lo dico veramente, spero non mi sentano i miei figli. Qualche volta a me viene il sospetto, dico: ma se tornassi indietro, forse anch'io una resezione me la sarei data. Però adesso sono contento, che discorsi. Però nella nostra natura umana fallace, capace di pensare, ripensare, sovrascrivere ogni pensiero, ogni tanto l'idea viene, via, diciamoci. Chi non ammette questo non è sincero, immagino. E invece dal suo punto di vista il ripensamento. No, io non ho avuto mai dubbi. Devo dire che fin da bambina, quando mi dicevano: poi vedrai, quando sarai grande, sarai mamma, io ho sempre detto no. Ma è giusto no. Che lei non sia stato, perché sarà così. Guarda che veramente bisogna tagliarsi una fetta di se stessi quando sei figli, non è una cosa leggera, mica è facile. Sì, questo lo so, me ne sono anche resa conto, però non. Per me era terribile pensare alla gravidanza, pensare a partorire, pensare di dovermi occupare per sempre. C'è anche l'epidurale oggi, non è che fa più male. Non no, è ma conda. Non era per quello. È proprio il fatto che poi hai un essere di cui ti devi occupare tutta la vita. Non ci sono storie, cioè non ma è che lo è vero, fai sì. Quello no, quello lei ha profondo senso di coscienza. Molti li fanno, cioè, poi vedremo. No, io sono stata sempre molto, molto lucida. Senti, ma c'è mai stato qualche maschio che dopo aver usufruito della libertà del suo essere stubata, gli ha detto: ma mi piacerebbe avere un figlio con te. Ma sai che non me lo ricordo, non mi sembra. Brava, benissimo, perfetto. Vabbè, lei è nata, è una donna che ha fatto una scelta radicale. Nelle possibilità di realizzazione di una donna ci sono due grandi vie: l'uno è quello di fare la grande madre, e l'uno è quello di dare gioia all'umanità. Di fare la grande figlia. Ah, perché lei... No, questo non me lo doveva dire. Ma è la verità, senza... Ah, quindi lei si è sterilizzata per rimanere figlia eterna? Io penso di sì, naturalmente. Vabbè. Allora non è che un altro io grosso problema. Pieno. Poi però ho fatto anche... No, io pensavo l'avesse fatto per la gioia dell'umanità, per rendere felice il mondo, per seguire una via dionisiaca. Sicuramente i figli che non ho avuto saranno sicuramente... più felici di non averne avuta come madre. Perché avrà fatto felici i padri di altri figli, probabilmente. Sì, è capitato. Pure. Va bene, grazie Antonella. Prego, ci mancherebbe. Per fortuna esistono anche persone come lei. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei invece sta alla parte dei figliatori. Mamma mia, complimenti alla signora che era prima lo so. In linea. È una scelta dura. Non Beh, anche la sua, tre gemelli, non è una scelta facile. Diciamo che il problema di oggi è che molti... vanno avanti perché sembra una storia che uno deve fare, mettere su famiglia e fare figli, e poi quando se li ritrovano diventa dura. Indipendentemente che sia uno, due, tre, tolgono praticamente tutto. Tre gemelli non è facilissimo, immagino. No, anzi, è molto difficile, glielo posso assicurare. Però sa, lei ha solo una fortuna. Evita i problemi della gestione di età dispari, nel senso avrà tutte le adolescenze con problematiche allo stesso livello, le malattie morbillose allo stesso livello, gli amori allo stesso livello. Il problema è averceli un pochino distaccati nel tempo, che crea un po' di schizofrenia genitoriale. Però. Ma diciamo che però avendo, se uno ce li ha distaccati nel tempo, è anche una gestione... forse più facile, a differenza di 3 o 4 anni, uno riesce a gestirli meglio. Senta, vediamo il punto di vista di un padre, perché conosco i limiti delle gestioni paterne. Sì, in percentuale, perché... quanto stanno sulle spalle sue e quanto sulle spalle di sua moglie, i tre pargoletti? Sono sempre stati, diciamo, 75% sulle spalle di mia moglie e 25%... Beh, è già una buona media il 25. Guardi, io c'ho amici che non hanno mai in vita loro cambiato un pannolino a un figlio e ne porrebbero... No, diciamo che la gestione della notte l'ho sempre fatta io. Beh, poi tre insieme, non è che da fino solo... Fino all'età di 3 anni, adesso ne hanno 3 e mezzo, però poi bisogna lavorare. La crisi postpartum ce l'ho avuta io, non ce l'ha avuta mia moglie, perché per noi maschi è veramente duro... guardare i neonati. Non, ma sa che io non me la ricordo tanto dura, a me mi divertiva un sacco, trovavo una cosa divertente, cioè speravo che rimanessero sempre così perché mi divertivo, ero fiero, andavo ai giardinetti con i ragazzini piccoli, faccio tutto il fighetto, faccio finta di non sapere come gestirli, ero circondato da smaniose di darmi istruzioni, è stato un momento felice, come quelli che vanno col cagnolino, andavo coi figli, però me ne saranno grati perché li ho fatti divertire. Con 3 bambini piccoli non riuscivamo ad andare da nessuna parte, cioè quando ci provavamo dovevamo tornare a casa perché... lo so, sì, cioè, lei sentiva il duro sapore dell'emarginazione da parte anche dei suoi amici, esatto, diciamo, esatto. Lo so, ma infatti io ho detto è a un certo punto un incrocio, le strade si separano, quelli che hanno i figli e quelli che non hanno i figli, poi quando i figli crescono timidamente si riaffacciano gli amici separati che sono soli, vogliono venirti a piangere sulla spalla, ti portano le nuove fidanzate a vedere per fargli vedere che hanno amici coi figli, per avere delle immagini rassicuranti, si recupera un pochino nel rapporto tra amici, però diciamo che è molto duro. Grazie, la ringrazio. 800 24 00 24, parlate, da che parte state, la parte dei figliatori o la parte di coloro che hanno fatto la grande, profonda e irreversibile rinuncia come la signora. Melog 2.0. Ho 34 anni e a chi mi critica perché non voglio figli non rispondo nemmeno più. Io convivo. Non ho avuto nessun problema con i miei genitori da ragazzo, né con mio fratello. Adoro la mia famiglia e farei di tutto per loro. Apprezzo i miei genitori per quello che hanno fatto per me. Non vedo perché, se alcuni hanno fatto una scelta di vita, io debba ripeterla pari passo. Non voglio figli semplicemente perché non credo che in questo mondo valga la pena averne. Non voglio passare il resto della mia vita a pensare ai figli, a vivere per loro, a far decidere il resto della mia vita a dei bambini. Io sono così. Voglio essere libero, senza condizionamenti, libero di fare, dire, comportarmi come preferisco, di poter decidere qualsiasi cosa senza dover prima pensare ai figli. Non critico chi decide di averne, ma per favore, lasciate in pace chi decide di non volerne. 800240024, mi sta scrivendo adesso su Facebook la persona che ho citato all'inizio della trasmissione, a cui dedicare la mia trasmissione, la mia amica figliante, amorosa madre ma lievemente, nostalgicamente rimpiangente, il suo stato prenatale, che si dichiara commossa per la mia citazione del frutto del suo seno. Grazie per la dedica, mi dice. Beh, questa mattina stiamo dando voce sincera e spassionata alle persone che hanno fatto una delle due scelte che biforcano il destino dell'umanità, o perlomeno nel nostro paese il destino della composizione della società da qui ai prossimi anni. I radicali decisionisti di non avere figli, che riconoscono gli aspetti egoistici della loro scelta, ma l'egoismo non sempre deve essere considerato un demerito, molte volte è anche una scelta creativa, è una scelta che permette di dedicarsi comunque al progresso dell'umanità, al progresso del pensiero, alla poesia, al dispensare piaceri, sogni, illusioni all'umanità, che mestamente invece si dedica molte volte a quello che ritiene un dovere, una necessità istituzionale, una sorta di mandato etico, di missione inalienabile al proprio essere umano. A quale parte dell'umanità appartenete? Problema che si pone molto nel nostro paese, devo dire, da altre parti si pongono molto meno il problema, visto che noi ce lo poniamo e visto che è abbastanza antitetico rispetto allo stereotipo che ci ha sempre raccontato un grande popolo di fecondatori e di genitori di un'infinità di figli, beh, forse è giusto che diamo voce ad entrambe le parti, perché entrambe sono scelte che comunque richiedono coraggio, richiedono determinatezza. E ammiriamo molto chi ha coraggio di impugnare le proprie scelte. Federico, buongiorno. Buongiorno, intanto va bene, prima volevo dire una cosa, poi sentendo gli interventi degli altri ascoltatori mi sono venuti in mente 100.000 altre idee. Io ho un figlio di 3 anni e mezzo e da quando l'ho avuto evidentemente la mia vita è cambiata. Non saprei dire se in positivo o in negativo, però nel frattempo io sono anche cresciuto, adesso ho 39 anni quest'anno, e trovo che sia stato alla fine una cosa bellissima. Io quando vado in giro non parlo mai di mio figlio, infatti la gente ogni tanto mi chiede se veramente io abbia un figlio, perché quando esco con gli amici non parlo dei figli, perché evito di annoiarli con cose tecniche che magari chi non ha figli non capirebbe, chi ne ha ha gli stessi problemi, cosa gli vado a raccontare. E io che ho vissuto tanti anni con mia moglie senza avere figli, perché li abbiamo avuti dopo 8 anni di matrimonio, quindi abbiamo passato del gran tempo anche a divertirci, trovo belle tutte e due le cose, sia il non avere figli che l'averne. Io oggi sono felicissimo ad avere mio figlio e ogni tanto dico, ma pensa se non l'avessi avuto, che brutta vita starei facendo in questo momento. Poi dopo ci ripenso e dici, no, che vita diversa starei facendo, però non avrei provato delle emozioni che oggi che ho provato veramente trovo di aver avuto la fortuna di provare delle emozioni completamente diverse. Io non ho questa visione così romantica, lo dico veramente, perché mi piace mettermi in gioco. Io apprezzo molto di più gli spazi furtivi che riesco a rubare alla vita e al dovere. Io ho un forte senso del dovere, quindi lo faccio molto volentieri, non lo sento come un peso, mi sento eticamente realizzato quando assolvo i miei doveri. Però mi dà un sacco gusto pensare che posso, a latere di questi doveri, gustare al massimo la qualità del tempo che ritaglio per me stesso. Prima, anche io quando non avevo figli, avevo tutto il tempo davanti, ma la maggior parte del tempo lo consumavo in maniera scellerata. Non ricordo nulla, ricordo molto più il tempo mio che mi godo in questi anni rispetto a quello quando ne avevo 30, 25 o anche 35, in cui sì, avevo davanti tutto il tempo che volevo, ma ho pochi ricordi, ecco, legati a quel tempo. Ecco, io con mia moglie ho adottato poi una tattica che ovviamente bisogna avere la fortuna. Noi abbiamo preso una persona che una volta alla settimana sta a dormire a casa nostra. Una specie di quella, lei prima ha detto l'Ucraina che sì, era, che, lo dico con affetto, è come no, ma esatto, una volta esatto, si diceva, ma con grandissimo affetto lo dico, questa persona che una volta alla settimana viene da noi la sera a tenere il bambino, ma e sua moglie esce, io e mia moglie usciamo. Ah, uscite tutti e due. Da quando il bambino ha penso una settimana, sì, noi tutti i martedì, ormai anche i nostri amici lo sanno, se ci devono invitare sanno che per noi martedì è il giorno libero, per noi. Noi tutti i martedì siamo fuori. E questo vuol dire uscire con gli amici o addirittura andare magari io e mia moglie a mangiarci la pizza sotto casa ed è per staccare un attimo dal bambino. Ma è lecito dalle parti di casa vostra che esca uno o l'altro e uno rimanga a fare la corvée con il figlio? Ah, guardi, mia moglie è appena stata 15 giorni in India per lavoro, prima per andare a un festival, poi per lavoro e poi bloccata dal vulcano. Penso e questi 15 giorni, che fortuna. 17 giorni in realtà ho fatto io la corvée col bambino, quindi... Quanto ha il figlio? 3 anni? 3 anni e mezzo. Quindi è come avere la casa libera, è una pacchia enorme. Sì. Per una volta che l'ha messo a letto e lo chiude a chiave, può invitare amici, fare feste, qualunque cosa. Sì, no, non sono così, magari io sono meno festaiolo, mia moglie ne avrebbe fatte di più. Però sono andato a una festa, i martedì sono uscito, perché martedì ho questa persona che viene a dormire, quindi sono uscito. E poi le altre sere mi sono visto dei gran bei cartoni animati, io ho ancora un po' l'animo da bambino, quindi per me vedere io mi sono trattenuto dal vedere cartoni animati finché non avessi avuto un figlio. Quello che molte persone denigratori della scelta dolorosa di avere figli non valutano, che se c'è una complicità di coppia, in realtà il tempo libero si raddoppia, perché uno potrebbe fa un patto, dice guarda, l'importante è che uno rimanga a casa se necessario, mica detto se va sempre uscire assieme. Se uno ha la fortuna di trovare una terza persona badante, va bene, un nonno, una nonna, una zia, ma molte volte basta organizzarsi, dice guarda, il martedì sto a casa io e il giovedì ci stai te, comunque un giorno libero si ha. Va bene, grazie Federico. Anna è contro i figli. Pronto? Anna contro i figli. Pronto? Sì, l'ascolto, eccomi. Ecco, sì. E io volevo raccontare la mia storia. Io ho deciso da piccolissima di non avere figli, avrò avuto 5-6 anni. Ma si è stubata anche lei oppure soltanto? No, no. Io ho sempre usato anticoncezionale e me sempre non ne ho avuti, ormai ho un'età per cui il problema non si pone più. E sono anche di un'epoca in cui insomma i figli erano ancora un valore, i figli, la famiglia era una cosa sacra. Mia nonna mi ricordo che mi disse quando avevo un 5-6 anni, mi insegnava a fare i lavori di casa, mi disse stai attenta a non darti mai la scopa finché spazzi il pavimento sui piedi, perché succederà che non ti sposerai più e non avrai figli. Io me la diedi subito. E vede il fondo di verità profetica che c'è nella saggezza dei nonni. Lei si è data le scopate sui piedi e quindi non ha fatto i figli. Ma l'ho fatta perché l'ho fatto proprio decidendolo. A quell'epoca non li volevo assolutamente, non volevo una famiglia. Ma cosa la spaventava? Non lo so, probabilmente. Vabbè, l'impegno, il peso che rappresentavamo noi per i nostri genitori. Ecco, ma visto che lei parla di un'altra epoca, lei cosa ha fatto? La zitellona tutta la vita? No, io ho avuto delle relazioni, ho anche adesso un compagno che non vive con me, perché è una cosa che non accetterei, io non ho mai convissuto. Ha fatto l'amante? Sì, no, mica lo dico nel tempo. L'amante, ma non di persone sposate, di persone libere, e ognuno a casa propria. Non ho mai avuto relazioni, non più di tanto, insomma, ecco, proprio una storia con persone libere. E sono sempre vissuta per conto mio, del mio lavoro, della mia attività, e l'indipendenza, i figli, guardi, mi piacciono molto i cani. Ho un cane, non ce l'ho io, ce l'ha il mio compagno, perché per me è troppo impegnativo anche il cane, diranno che sono una grande egoista, però sono contenta della mia scelta, se tornassi indietro non cambierei. Anche il futuro che molti mi presentano, non so, quando sarei vecchia sarei sola, non avrai nessuno. Ma quello accade anche con i figli, non è che i figli sono questa garanzia di assistenza per la vecchiaia, è un'altra chimera, cioè uno non fa i figli per avere dei badanti quando sarà vecchio. I badanti se li paga comunque, quindi si sceglie chi vuole. Esattamente, ecco. Giusto. In alcuni casi danno anche delle soddisfazioni senili inaspettate, quindi è un vantaggio in più, cosa che i figli non permetterebbero mai. Grazie. Cristiana. Buongiorno Gianluca. Una io filiatrice. Sono una filiatrice. Una filiatrice non pentita, perché li ho scelti, li ho voluti, però in certi momenti vorrei fuggire dall'altra parte del mondo. Quindi ecco, si sente nelle condizioni la mia amica che ho evocato all'inizio della trasmissione? Assolutamente sì. Sembro io quasi, sono io, ma sembro. Ci si riconosce io. Benissimo. Mi si riconosco benissimo, no, però la cosa... Ecco, però vorrei capire di più, Cristiana. Sì. Questa situazione, questa emarginazione sociale, succede anche per lei che a un certo punto le persone che frequenta sono mamme come lei, condannate a parlare soltanto di figli, di pannolini, sì, di diarrea. Però io, se devo essere sincera, poi quando sto con altre persone, mamme o persone che non hanno figli, preferisco non parlare dei miei figli ma parlare d'altro, perché se no mi sembra di non staccare mai, di stare sempre nello stesso vortice, quindi anzi io ma è difficile oggi trovare dei complici di fuga domestica quando l'allevamento dei figli sembra l'argomento comune, uno che li abbia, che non li abbia. Quindi, ieri sì. Ho fatto un viaggio in treno con una mia collega di tanti anni fa, del genere sfigliante, senza figli, mi cominciava a dire: beh, certo, sai, ormai comincio ad averci una certa età, gli uomini non mi guardano più come una volta, mi sento sola. E ho letto e ho avuto un attimo tenerezza e desiderio di occuparmi di quelle carni spaventate dal fatto che si trovava di fronte a un periodo che pensava di solitudine, e volevo dirle: guarda che è la stessa cosa anche perché c'hai figli. Non credo che lei, Cristiana, appoggi la speranza di una vecchiaia popolata di persone che le stanno attorno per il fatto che ha fatto dei figli. No, non vorrei mai condannare i miei figli a badare a me, a mio marito vecchi, cioè ci staranno probabilmente accanto, ma in maniera sana. Cioè, non oso immaginare, loro saranno i miei badanti, mi mette una tristezza terribile. Cioè, i figli è giusto che vadano poi per la loro strada, e certo, ognuno di noi ama pensare che in vecchiaia questi ti vengano a trovare almeno una volta a settimana e pranzano con te, però detto questo, no, cioè i figli... Beh, è facile che vengano se lei mantiene la firma sul conto corrente senza condividerla con i figli, se no, se lei fa una delega o fa una doppia firma, sarà molto difficile che la vengano a trovare. Melog 2.0. Noi abbiamo deciso di non avere figli ed è stata una decisione maturata già durante il periodo di fidanzamento. Ce lo siamo detti molto chiaramente, avevamo dei progetti nostri come coppia che ovviamente non prevedevano questo aspetto. Non è una rinuncia, abbiamo semplicemente un'idea della nostra vita differente. Io la famiglia la intendo assolutamente così: se ci sono dei bambini, i genitori devono essere assolutamente presenti nella loro vita. Senza questa presenza non ha senso mettere al mondo dei bambini, metterli al mondo per farli crescere dai nonni, metterli al mondo per farli crescere da istituti, metterli al mondo per farli crescere dalle scuole. Mi sarei dovuta trovare io magari a rinunciare al mio lavoro. Sarebbe egoistico se io mettessi al mondo un figlio per il piacere di mettere al mondo un figlio e poi non avere la certezza di dargli quello che un figlio merita. Quindi è egoistico nella parte in cui io penso a me stesso, e sono d'accordo, perché io, lei, pensiamo a noi stessi, alla nostra carriera, a viverci la nostra vita. Smette di essere egoistico nel momento in cui fare un figlio è facile. Garantirgli quello che tu vuoi, quello che tu senti davvero sia necessario per un bambino, questo diventa più difficile. Un cattolico qualunque potrebbe... Non è difficile, è praticamente impossibile. Non riuscirò mai a realizzare quello che vorremmo con un figlio. Uno ci prova, uno tenta, in questo arduo e disperato tentativo si consuma e si passa il tempo della paternità, della maternità, si va avanti, poi a un certo punto ci si accorge che questi ragazzi che noi consideriamo ancora bambini, hanno dei grandi baffoni o hanno delle grosse tette a seconda del genere a cui appartengono, e quindi ci si rende conto che il nostro compito è di aiutarli gradualmente a rinunciare a noi. Guardate che è una cosa terribile, ma se uno veramente può prendere fino in fondo il senso della paternità, della maternità, di avere dei figli, da un certo punto in poi bisogna creare le condizioni perché i figli si affranchino da noi stessi. Forse è il momento più doloroso, ma è il momento necessario. E se uno ancora ha forza, vigoria, fantasia e olfatto sviluppato a sentire gli odori della primavera, può essere anche un momento felice in cui finalmente i figli se ne cominciano ad andare un po' per la loro strada. Claudia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io ho il piacere di intervenire e portare la mia testimonianza. Io figlianti o resettati? Figliante, ma non figliante fino a 3 anni fa. Determinata a non volere né figli né mariti intorno, e devo dire soprattutto il marito era il mio ostacolo principale. Però questa è un'altra missione, cioè rinunciare al marito secondo me è lecito, anzi a volte è anche auspicabile. Oggi parliamo dei figli. Sì, hai ragione, però no, alla fine ragionandoci ho pensato che in realtà dei figli senza un papà sarebbero stati dei figli forse un pochettino incompleti, sarebbe stata una scelta egoistica mia. Sì, ma quella. Un papà, guardi, mi creda che è un mestieraccio. Non basta che ci sia soltanto come ectoplasma o come avatar, ci sia un ometto dentro casa così che bene o male porta i pantaloni. Il padre deve averci anche però un po' di palle, scusi il termine, sennò è inutile che ci stia a fare. No, ma bravissimo, è proprio questo il punto. Io fino a 37 lo so, ho capito qual è il problema. Sono stata convinta di non volere famiglia, ma poi ho conosciuto una persona che mi ha fatto cambiare idea. Cioè, ha trovato un uomo finalmente. Sì, no, ma ho trovato un uomo che desideravo potesse diventare il padre dei miei figli. Cioè, a un certo punto mi sono trovata a pensare, sì, voglio fare dei figli con questo uomo perché non mi spaventa pensare che lui diventi il padre dei miei figli. Perché aveva un uomo che si prendeva la sua responsabilità di essere uomo. Bravissimo, e infatti è così. Che il vero problema è questo, sa perché le amiche mie non figliano, pur avendo compagni meravigliosi, stupendi uomini, intelligenti... Perché sanno, sono dei bamboccioni che non si prenderebbero mai la responsabilità di doversi prendere sulle spalle. Non dico il peso fisico, economico, che viene condiviso piacevolmente anche alle donne, ma la responsabilità di essere nei momenti in cui serve un uomo e una famiglia. Perché dire questa cosa risulta quasi una bestemmia. È importante che ci sia un punto di riferimento maschile in una famiglia, sennò altrimenti non esiste. Sennò è tempo perso, sennò sono semplicemente delle aggregazioni umane con prole, con discendenza. Grazie mille Paola. E ho parlato con Paola adesso? Ah, con Claudia. Allora Paola, eccola qua. Paola, salve. Lei cosa ha fatto? Una figlia? Roma. Io sì, ho una figlia, ho 43 anni, ho passato un lungo periodo, discreto periodo in cui sono stata single e ho frequentato in quel periodo non soltanto i single, ma anche le coppie con bambini. E, così cominciava adesso... a prendere dimestichezza, no, con il problema? No, non sapevo che avrei fatto una figlia, l'ho fatta anche abbastanza in tarda età perché ho 5 anni, ora io ce n'ho 43 suonati, quindi insomma... Ma primi para tardive. È attempata. È il termine che utilizzano, forse decrepite ormai. È bella questa parola, è bella perché mette una tristezza terribile. La maggior parte delle donne oggi fanno un figlio dopo i 30 anni, 35 anni. Sì, ero in buona compagnia, però ecco, voglio dire, mi sembra che ci sia anche in molti casi, dall'una e dall'altra parte della barricata, come le ha definite lei, un po' di ipocrisia. Nel certo. Senso che io frequentavo appunto da single anche coppie e coppie con bambini, e adesso che sono neanche coniugata, insomma, però in una famiglia con bambina, frequento le single, il che, come diceva lei, è anche più semplice, perché mi sembra un po' triste questo del martedì di libera uscita, mentre quando capita l'occasione e non si può uscire insieme, si può invece uscire confidando, e lì le donne devono fare una battaglia. È quello che dicevo io, basta esatto. Organizzare anche i tempi delle fughe domestiche mettendosi d'accordo, nel senso che si sa che uno non è facile, guardi, bisogna distinguere tra donne e uomini, perché gli uomini che hanno i loro martedì di calcetto magari o cose del genere, io la categoria dei calcettisti non la considero una categoria degna di essere presa in considerazione. Le mie compagne così, però ne vedo tanti così amano anche divertirsi e dire sai che botta di vita, chiudersi uno spogliatoio a prendere a 30 anni a calci un pallone in un calcetto illuminato. Vabbè, grazie, chiudiamo con Lorenzo, sennò non posso dare parola a tutte le rappresentanze. Lorenzo. Eccomi. Lei è un plurifecondatore. Sì, sono un padre giovane. Quanti figli? Padre, 36 anni, ho 6 figli. Arrivo da una famiglia già numerosa che ha reso desiderabile una cosa analoga, e quindi grazie al buon Dio i figli sono arrivati, copiosi. Quelli arrivano comunque, ci si impegna, sì, arrivano. Sì, sì. Assolutamente. No, senta, come mi spiega una cosa? Le faccio una domanda proprio in conclusione, sulla sigla. Sì. Come mai io sono partito totalmente neutrale? La prima parte della trasmissione hanno chiamato quelli dell'orgoglio della non figlianza, e poi c'è stata questa lenta ma inesorabile e decisa risalita dei figliatori compulsivi. Come mai? Ma perché tutto sommato io credo che rinunciare alla bellezza dei figli sia come perdere qualcosa, insomma. Vabbè, però come abbiamo detto all'inizio, qualcuno è convinto di perdere qualcosa, qualcun altro sì, invece. Assolutamente. E quindi ho raggiunto lo scopo che volevo, ho dato voce a tutte le rappresentanze, a tutti quelli che si domandano, si arrovellano sui dati Istat, hanno un materiale umano su cui riflettere, visto che ci sono delle posizioni entrambe rispettabili, entrambe condivisibili, entrambe ben rappresentate nel pubblico di Melog. Ringrazio per questo Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. Non c'entra niente, ma ci sta bene. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.